Liberi Dentro ed Uradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Mercoledì 12 maggio, buongiorno di nuovo a tutti i nostri ascoltatori tra la città e il carcere, bentornati a Liberi Dentro ed Uradio, ora in onda su Radio Città Fujiko, Teletricolore e Lepida TV. Do il buongiorno anche ad Antonella Cortese, sempre qui con me dagli studi, invece non di Bologna ma di Parma, buongiorno. Buongiorno a Caterina e buongiorno a tutte e a tutti. Allora, oggi Antonella, tocchiamo il tema della giustizia riparativa che a noi di Eduradio è molto caro e magari poi lo dirai anche tu. E infatti leggo questo articolo dall'Huffington Post, la giustizia riparativa quando vittima e colpevole si incontrano, a firma di Federica Olivo. E intanto chiariamo, la giustizia riparativa o giustizia rigenerativa, in inglese restorative justice, è un approccio che consiste nel considerare il reato principalmente in termini di danno alle persone, quindi la vittima e il colpevole. E da ciò consegue l'obbligo per l'autore del reato di rimediare alle conseguenze lesive della sua condotta, come magari proprio avviando un processo di dialogo con i familiari della vittima. In Italia è praticata non ovunque, ma solo per i minori, e la ministra Cartabia vuole sviluppare un dialogo su questo e magari cercare di avviarla molto di più anche negli istituti per adulti. Vi voglio raccontare con le parole di un detenuto che cosa è questa giustizia riparativa. Lui scrive: la nebbia si dipana lentamente, ma quando finalmente va via riesci a vedere i tuoi errori con una nitidezza che neanche avresti mai potuto immaginare. È un ponte, quello che serve a raggiungere gli altri, se non i familiari delle persone a cui hai fatto del male. È un'immagine bella. È un'immagine bella, è un'immagine forte che parla appunto di un ponte, perché la giustizia riparativa è quel ponte che unisce un po' gli opposti, le vittime, i parenti delle vittime, che poi sono quelli che sono un po' più trascurati, no? Restano un po' fuori, ma c'è una sofferenza condivisa e quindi tutte le parti in causa vengono tirate in ballo, sono tutti a parlare, a discutere, a ritrovarsi su un argomento che ha creato sofferenza a molti di loro. Voglio soltanto ricordare una cosa, Caterina, che abbiamo avuto anche un ospite che si chiama Franco Bonisoli, che grazie alla giustizia riparativa ha fatto un percorso proprio di riabilitazione e riconciliazione con se stesso, e non solo con se stesso, ma anche con i parenti delle vittime. E anche perché grazie ad Adolfo Ceretti e al gruppo che aveva costituito al tempo, ha fatto un lavoro di giustizia riparativa molto importante. Esatto, è proprio così. E lo ha fatto, come molte delle persone avviano questi processi di giustizia riparativa, senza però mai bypassare il diritto penale. Questo è importantissimo. Assolutamente. Non si contrappone né si sovrappone al diritto penale, assolutamente. È una strada diversa che è, diciamo, integrativa in un certo senso, ma non, sicuramente non supplisce né vuole prendere il posto del diritto penale. Esatto, si punta ad andare oltre, a sviluppare quel rapporto spesso inesistente tra l'autore del reato e la vittima e la comunità coinvolta. E pensate appunto che anche la ministra Cartabia l'ha detto, l'ha dichiarato, la giustizia riparativa è un aspetto ancora del tutto da sviluppare in Italia e che lei ha avuto modo di dire anche in Parlamento che le sta a cuore e desidera sostenerlo attraverso un'azione di governo. Sì, infatti, questa è una cosa molto importante perché la giustizia riparativa serve proprio alla società. Noi pensiamo a vittima, reo, parenti delle vittime, ma noi siamo coinvolti, è la società intera, la società tutta che ha bisogno di confrontarsi su certe tematiche. Però ti chiedo, che cosa possiamo dire sulla giustizia riparativa nel carcere minorile? È molto praticata nel carcere minorile, molto più nel minorile che per gli adulti. È una proposta di legge, questa a firma del deputato del Movimento 5 Stelle, Davis Dori, che punta a creare strutture che la rendano possibile in tutto il paese. Per il mondo degli adulti ci sono alcune esperienze in giro per l'Italia, messe a cantiere principalmente da associazioni e enti locali, ma c'è ancora molto da fare. Ma c'è ancora molto da fare anche specialmente per le figure di mediazione. Pensate che in Italia siamo ancora molto indietro, sono figure poche, spesso sovraccaricate. Mentre ci sono altri paesi come la Norvegia, dove ci sono istituti di riconciliazione esistenti già da oltre 30 anni, oppure in Finlandia, dove si insegna la mediazione intendo tra vittima e reo, o famiglie, insomma, familiari delle vittime reo, sin dalle scuole, oppure anche in Francia, dove sono stati creati centri di prima accoglienza per le vittime. Quindi un confronto veramente importantissimo, esiziale in qualche modo. Sì, infatti volevo aggiungere, Caterina, che anche in Italia stanno nascendo dei gruppi di mediazione, anche a Parma ne abbiamo uno, per esempio, che si è formato proprio con Adolfo Ceretti e con la sua squadra. Ed è molto importante perché appunto c'è una disponibilità diversa, un ascolto diverso ed è un po' quello che in giapponese si chiama il kintsugi, quest'arte di riparare i cocci con un filodoro e una lacca, no? Perché la giustizia riparativa è un po' quella, rimettere insieme le cose che non sono più come quelle di prima, perché nessuno può cancellare quello che è avvenuto, però lo possiamo leggere in un modo diverso e possiamo anche un po' ritrovare la nostra dimensione umana con questa modalità. E quindi ti chiederei della proposta di legge per rendere possibile in tutta Italia la giustizia riparativa, se vuoi Sì, dire due parole in questo come senso. infatti accennavo poco fa, l'onorevole Davis Dori del Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta di legge per fare in modo che uno strumento così prezioso, già sperimentato in varie zone, anche in vari paesi europei, diventi utilizzabile a livello nazionale italiano, attraverso l'istituzione in ogni distretto di corte d'appello di almeno un centro di mediazione penale. Questo sarebbe veramente un successo per il nostro paese. E adesso però mi fermo qui, lancio una canzone, sempre con Jimi Hendrix, Hey Joe, del 1967. Hey Joe, where you going with that gun in your hand? Hey Joe, I said, where you going with that gun in your hand? I'm going down to shoot my old lady. You know I caught her messing around with another man. Rieccoci, bentornati su Liberi Dentro, sempre sulle note del nostro Jimi Hendrix che ci accompagna per tutta la nostra settimana. Ma Antonella, oggi restiamo in Medio Oriente, ma non mi hai ancora detto di cosa vuoi parlare. Caterina, allora io ti faccio una domanda. Ti piacciono i gatti? Certo, ovviamente, come tutti gli animali. Bene, bene, perché oggi parlo proprio del mito dei gatti nel mondo arabo. In realtà, in moltissime città del Medio Oriente, dal Cairo a Istanbul a Damasco, ci sono tantissimi gatti per le strade, ed è facile anche vederli a girarsi nelle moschee. Anche perché tengono a bada i topi, effettivamente li mangiano, quindi, o comunque li eliminano in qualche modo, però sono tenuti anche in grande considerazione tra i musulmani e nel Corano ci sono molti riferimenti a questi animali. Faccio una precisazione, anche il nostro Ignazio De Francesco mi ha raccontato che nei suoi viaggi, sapete che ha viaggiato 15 anni in Medio Oriente, ha trovato un sacco di felini in giro. E quindi abbiamo il testimonial da questo punto di vista. Comunque, tornando alla tradizione islamica, il profeta il profeta Maometto era un amante dei gatti e ne aveva chiamato uno Muezza, che lo salvò dal morso di un serpente. E, si narra tra l'altro che un giorno, trovandolo addormentato sulla manica di una sua veste, piuttosto che svegliarlo preferì tagliarsi la manica e in seguito ovviamente la ricucì. Inoltre uno dei suoi più fedeli compagni si chiamava Abu Huraria, che si traduce come padre della gattina, per la sua abitudine appunto di portare sempre con sé la sua gatta e di dare da mangiare un po' a tutti i randagi che si trovava intorno, ma soprattutto quelli che erano nella moschea. Inoltre c'è un hadith, scusate se la mia pronuncia non è perfetta, che è un racconto della vita del profeta, che recita in questo modo: l'affetto per i gatti fa parte della fede. Ma Antonella, in qualche modo anche nell'antico Egitto, no? I gatti avevano un posto d'onore. Altro che se avevano un posto d'onore, erano deificati e riveriti ovviamente. Infatti pensa che la dea Bastet, simbolo di fertilità e bellezza, era raffigurata con la testa da gatto e nel suo tempio sul delta del Nilo si rivolgevano speciali preghiere proprio a questi animali, ai quali erano anche organizzati pomposi funerali ed erano poi mummificati e messi nei sarcofagi. Infatti guarda, nel 1980 nell'antica Bubasti, cioè l'odierna Tel Basta, furono scoperte 300.000 mummie di gatti e nel 2018 a Saqqara, che insomma nei pressi del Cairo, sono state ritrovate 3 tombe destinate ai gatti, quindi l'importanza era notevole. E cosa mi dici del mondo artistico, dove in qualche modo, pensiamo anche all'arte islamica, sono molto presenti raffigurazioni di felini? Eh sì, in realtà non solo nell'arte islamica, ma in generale nell'arte il felino è sempre stato un animale molto rappresentato. Nell'arte islamica moltissimo, e ci sono addirittura dei detti popolari che richiamano un po' al felino. Infatti ve ne dirò qualcuno. Uno di questi è: come un gatto mangia e dimentica. Oppure un altro: parli del gatto e arriva saltellando, che è un po' come il nostro parli del diavolo e spuntano le corna, più o meno, no? Il significato è quello. E poi ci sono migliaia di storie sufi, sapete che il sufi è la corrente più spirituale, più un po' metafisica dell'Islam, che riguardano i felini, così come leggende, canzoni, poesie. Tant'è che il poeta Ibn al-Alaf, vissuto a Baghdad tra il 300 e il 900, dedicò un'elegia al suo gatto ucciso dai vicini dopo aver mangiato uno dei loro piccioni. I gatti poi, come tu giustamente dicevi, sono raffigurati anche in tante opere, anche in opere pittoriche di artisti moderni. E ho scoperto un sito che si chiama Rasef 22, un sito libanese in cui ci sono delle meravigliose opere arabe realizzate da artisti arabi, di pittura, di scultura, eccetera, in cui ci sono gatti dappertutto. Molto molto interessante. Allora, adesso ti tocca dedicare una canzone. Eh sì, allora, abbiamo presentato Fairuz la volta scorsa e questa cantante sembrerebbe essere, diciamo, la sua erede. E si chiama Tema, la canzone Al-Akbir. تذكر شو كنت تلي مهما يصير انتظريني وضلك صلي الله كبير تذكر شو Ben ritrovati su Liberi Dentro Eduradio. Oggi siamo con una nuova ospite, che in realtà non è nuova, Martina Zadra, insegnante di italiano e studi sociali, Centro per l'istruzione degli adulti di Bologna. Buongiorno e bentornata, ma non sei nuova, dicevo, su Liberi Dentro. No, infatti. Grazie Caterina e buongiorno a tutti, ben ritrovati a tutti e a tutte. È un piacere essere qui in tua e in vostra compagnia. Infatti dicevo, non sei nuova perché la scuola, il Centro per l'istruzione degli adulti, già dallo scorso anno, dal 2020, su Eduradio siamo partiti insieme dal 13 di aprile dello scorso anno, cercando di portare a termine quello che era il programma didattico, no? Alla radio e alla televisione. E adesso siete ripartite con noi dal 19 di aprile, con anche l'Epida TV, per fare delle rubriche a tema. Oggi parliamo di... E quali sono i vostri obiettivi? Cosa farete? Sì, forte diciamo dell'esperienza dello scorso anno, che per noi è stata una grande novità e una grossa possibilità per tenere un filo con gli studenti che non abbiamo più potuto vedere, sentire a causa del lockdown e delle chiusure. Abbiamo voluto riprendere l'esperienza della radio lanciando queste rubriche a tema che abbiamo chiamato School on Air, per la stessa ragione fondamentalmente. Anche l'anno scolastico 2020-2021 non è stato un anno facile per la scuola all'interno del carcere e diciamo così per la scuola in presenza. È stato un anno che ha avuto a che fare con molte emergenze. E la nostra esigenza, il nostro desiderio di far parte di Liberi Dentro Eduradio anche quest'anno è nata proprio dalla voglia di mantenerci in contatto, dalla voglia di esserci con la voce, non potendoci essere in presenza. E è quindi un lancio di una voce che speriamo che qualcuno possa cogliere. È una voce precisa, diciamo, perché sa a chi si indirizza. Abbiamo avuto l'opportunità, anche se spezzettata, no? Diciamo, di conoscere a chi ci stiamo rivolgendo. Quindi abbiamo avuto l'opportunità di conoscere, di vivere dei pezzi di scuola con gli studenti quest'anno. E questo ci ha permesso di modulare i contenuti e il linguaggio con il quale ci approcciamo alla rubrica che proponiamo. E, lo dico perché l'utenza, gli studenti delle nostre classi hanno livelli linguistici diversi, hanno provenienze, biografie, storie completamente differenti, particolari e diversificate, e quindi avere questa consapevolezza è molto molto importante. Abbiamo cercato di lavorare su due canali, da una parte lavorare con la voce, quindi lavorare con la radio, per offrire, ripeto, questo filo in qualche modo una cultura accessibile e mirata, attenta ai bisogni, proprio a partire da questa posizione, no? Di chi i bisogni educativi li ha un po' sondati, li ha un po' sperimentati insieme a loro. E consapevoli però del fatto che, soprattutto in un contesto del genere, la presenza e l'accompagnamento quotidiano sono fondamentali. Dall'altra parte, quindi, abbiamo affiancato questo lavoro della radio con anche una presenza, diciamo, cartacea in qualche maniera, per cui ogni due settimane ci affacciamo alle mura del carcere, per la casa circondariale, per fornire del materiale cartaceo. Ecco, quindi vanno insieme queste due strade, in assenza ancora di una connessione che possa essere utilizzata Ecco Martina, grazie. E allora, per chi ci ascolta nella cittadinanza bolognese e poi anche la regione Emilia-Romagna che ascolta il nostro programma, vogliamo dire proprio in un minuto, so che è proprio troppo poco prima di lanciare il nostro brano musicale, però dire come funziona la scuola all'interno del carcere, che viene sancita questo diritto all'articolo 19 dell'ordinamento penitenziario. Sì, allora, innanzitutto il fatto che ci sia la scuola all'interno del carcere appunto permette l'attuazione e la messa in pratica di un diritto, no? Che è il diritto allo studio. Dunque, noi chi siamo? Noi, è come se fossimo una sorta di sede staccata del CPA metropolitano di Bologna, che fa educazione per gli adulti all'interno del carcere. Questo che cosa significa? I nostri corsi sono divisi soprattutto in due grandi famiglie, in due grandi gruppi, quello che riguarda l'alfabetizzazione, dai livelli, vengono chiamati livelli pre A1, A1, quindi livelli di base, andando sempre più avanti, fino ad arrivare anche alla cosiddetta licenza media, il diploma, insomma, il percorso che dura un anno per arrivare alla ottenimento del diploma conclusivo del primo ciclo. I bisogni degli studenti in carcere sono particolari e dai, magari avremo modo di approfondire. Sì, perché ora ti tocca lanciare un brano musicale. Eh sì, quello che ho scelto è questo, quello che vi propongo è questo. Fast Car di Tracy Chapman, che è anche l'inizio della nostra sigla, del nostro programma di School on Air, quindi buon ascolto. You get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. Wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. Rieccoci dopo il nostro brano musicale Tracy Chapman Fast Car. Siamo sempre con Martina Zadra e siccome lo hai accennato tu prima di lanciare il brano, quali sono i bisogni educativi all'interno del carcere? Dicevo, sono estremamente particolari. Dobbiamo fare i conti con persone provenienti da luoghi molto diversi del mondo, persone che hanno attraversato dei traumi molto importanti, che li hanno portati lì, persone che vivono in maniera come ristretti e quindi sono costretti a avere una vita che perde una serie di diritti, che perde di umanità e che perde di respiro, che perde di libertà. E la scuola in questo riveste un ruolo e risponde a una serie di bisogni, possono essere questi, mi viene da dire. Innanzitutto dà luogo a una sorta di tempo diverso. E quindi è un tempo che si passa al di fuori della cella e sappiamo quanto è importante che all'interno di un carcere, di una casa circondariale, che la vita del detenuto sia costellata da esperienze del genere. Risponde, secondo me, a livello educativo in senso ampio, alla ricostruzione di un progetto di vita. Questo è fondamentale. Risponde a un bisogno di apprendimento, banalmente, anche apprendimento linguistico, che dà luogo a una maggiore consapevolezza, che dà luogo a una maggiore capacità di inserirsi in un tessuto, che è quello del tessuto sociale, economico di un paese, che dà luogo a una maggiore consapevolezza di chi si è e dei propri diritti. Sì, direi questo. Grazie, torneremo con te magari anche un'altra volta, perché ci hai detto tante cose e tutte molto interessanti. Allora adesso un brano lo lancio io, ed è una dedica in realtà da un volontario del carcere di Velletri. Ci dedica "Io pisaré la Scales nuovamente, me ne andrò di nuovo per le strade", dedicata a tutti coloro che fanno un cammino di cambiamento e poi una nuova vita fuori. Ascoltiamola. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentado, y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos, y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde, sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina. Rieccovi dopo Martina Zadra, l'insegnante del Centro per l'Istruzione degli Adulti, CPA di Bologna, che ci ha raccontato anche come funziona la scuola in carcere anche questo anno veramente duro, ancora persistente, di pandemia, che ha bloccato le attività rieducative ed educative all'interno del carcere e delle carceri. Noi ci salutiamo, se avete delle domande, sempre redazione liberidentro@gmail.com oppure Chiesa Santissima Annunziata, via San Mammolo 2, 40 136 Bologna. Se ci state seguendo su Lepida, a seguire tra poco una nuova rubrica, oggi parliamo di A Sorpresa, oppure alle 17 su Tele Tricolore. E noi ci rivediamo qui sempre domani su Liberi Dentro. Un grazie speciale alla mia collega Antonella Cortese, qui in studio con me, e a Pasquale Pitagnello per il montaggio di queste puntate. A domani, buona giornata. Liberi Dentro e Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.